Amici, cari amiche, eccezionalmente presento, anzi introduco io questa sera brucellando. Sentite già la partenza più soft, più dolce, e sentite in sottofondo il sorriso di una gran donna che adesso invece farà la vera presentazione, quella che sentite ogni volta, quella che avete ormai nelle orecchie, quella che vi tiene svegli, quella che dice è l'ora, ci possiamo mettere in ascolto. Cari amiche, cari amici, non mi è venuta purtroppo questa sera, George mi ha fatto sorridere, ma sono molto felice perché il traffico brussellese questa sera era meno denso e intenso. Assolutamente. Io sono arrivata prestissimo, quindi bentrovati, sono felicissima perché l'equipe è al completo, quindi partiamo con Dani M in regia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Buonasera. E George che è qua. Che ha avviato la trasmissione. Che è qua. Questa sera abbiamo due ospiti e facciamo un po' una puntata speciale perché ci abbiamo la puntata dell'8 marzo, quindi dedicata alle donne, ma Brussellando non sarà in onda l'8 marzo, quindi è una puntata dedicata questa sera in particolare alle nostre ascoltatrici. E abbiamo due ospiti, una in studio, quindi continuiamo questa bella abitudine che abbiamo preso ormai da qualche settimana di riuscire ad avere degli artisti, degli scrittori che a Bruxelles si trovano sia in, diciamo, stabilmente che di passaggio, e poi un ospite che è stata già a Bruxellando più volte ma che sarà in contatto telefonico con noi dal sud della Francia, beata lei, è al sole e al caldo, ma a Bruxelles per il momento non ci possiamo lamentare. Quindi passerei alla nostra prima ospite, però vedo Giorgio già pronto magari. No, è che hai parlato del sud della Francia. Sì. Allora, un amico che si sta andando in pensione si è comprato una casetta nel sud della Francia. Dove andrà? Antibes? Sì. Brava. La nostra ospite viene da Antibes, ugualmente, vive da Antibes, quindi ecco il network di Brussellando. E poi un medico invece, un medico generico che forse qualcuno di voi conoscerà, ma non posso dire il nome, che ha deciso a un certo momento di interrompere, da giovane, perché è molto giovane, interrompe la sua carriera di medico e dire: beh, ho guadagnato abbastanza, mi ritiro. E anche lui si è ritirato nel sud della Francia. Beato lui, noi lo salutiamo, lo ringraziamo, eravamo tutti felicissimi quando lui era qui, e tutti tristi perché ora non c'è più. Quindi, esatto, e io sono ancora senza medico. Tutti i medici in ascolto. Però vuol dire che sono buona salute, perché da quando lui se n'è andato ancora non ne ho avuto bisogno. Quindi proseguiamo così, a parte il colesterolo. Va bene, allora passiamo alla nostra prima ospite. Giorgio, non ci perdiamo in chiacchiere perché altrimenti poi non riusciamo a dire tutto quello che vogliamo dire. E sono molto contenta perché continuiamo anche a parlare di arte, ma questa sera parliamo di più forme d'arte, perché la nostra ospite di questa sera è veramente un'artista poliedrica. Pensate, si è diplomata con una tesi in didattica dell'arte sulla figura di Bruno Munari, che non è proprio da tutti, e negli anni ha realizzato strisce umoristiche e illustrazioni. Inoltre, nel tempo, ha approfondito la sua vera passione, che è la pittura, e si è avvicinata allo stesso tempo alla grafica e all'arte digitale, eseguendo opere quindi su commissione sia per aziende che per privati. Quindi diamo il benvenuto questa sera ad Anna Pieratti. Anna, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Allora, siamo molto curiosi di sapere di queste tue innumerevoli e molteplici passioni, quindi ci viene spontaneo chiederti: come nasce la tua passione in particolare per l'arte? Beh, più che dire come, quando, cioè nasce insieme a me. Tutti quanti da piccoli abbiamo disegnato, poi a un certo punto, per svariate ragioni, perché la vita è così, si smette e si fanno altre professioni, si prendono altri studi. Io non ho mai smesso, non sono mai riuscita a staccarmi dallo scarabocchio iniziale, quindi la mia passione per l'arte coincide esattamente con la mia persona, in sostanza. Beh, questo mi sembra essere interessante, perché poi intorno a questo argomento potremmo veramente sviluppare più teorie. Però quando tu sei giunta, quando tu hai maturato questa idea, c'è stato un artista in particolare che ti ha influenzato, oppure è stato veramente un tuo percorso, un tuo cammino? Allora, diciamo così, che questa attrazione primordiale ha incontrato nel corso del tempo degli ostacoli, che sono i classici ostacoli familiari, per cui verso la terza media un ragazzino bambino prende un indirizzo scolastico piuttosto che un altro. A me è stato consigliato vivamente di prendere un indirizzo artistico, ma la mia famiglia si è messa di traverso perché sicuramente non avrei potuto guadagnarmi da vivere. A quel punto, quando si nega una cosa, la si rinforza. E quindi io ho preso la strada del ho quindi una formazione umanistica, perché non ho potuto fare liceo artistico, ma ho continuato a disegnare mettendo i disegni tra i fogli del vocabolario di latino e coltivando in maniera nascosta e clandestina questa attrazione, che diventava sempre più forte, finché, raggiunta la maggiore età, ho deciso, in barba a chiunque, di provare ad entrare all'Accademia di Belle Arti di Venezia con un esame quindi da esterna. Ho studiato un anno privatamente da sola e sono riuscita, infatti se mi domandate, se mi chiedi qual è il momento più bello, più emozionante della mia vita, ancora oggi è il momento in cui sono andata a Venezia e ho letto i risultati dell'esame di ammissione. Io sono entrata col minimo, con 18, ma è stata una bomba atomica, perché a quel punto io ero autorizzata ad esercitare la mia passione. Poi è chiaro che in questo modo non si bada ai sacrifici, e quindi si studia, si lavora, si fanno mille lavori, le strisce umoristiche, i fumetti, ma pizzerie, ma bar, ma babysitter, tutto quello che serve per riuscire a piazzare un'illustrazione su un giornale o riuscire ad acquistare i materiali per fare un quadro. Ma questo sacrificio è nobilitato in tutti i casi dalla felicità che ne deriva, profonda. Quindi un artista in particolare no, sebbene nel corso degli anni mi sia avvicinata moltissimo alla figura di Giotto, perché trovo in lui una dolcezza commovente. Sono di Padova e quindi conosco bene i suoi affreschi che sono esposti, che si trovano alla Cappella degli Scrovegni, quindi ho avuto modo di vederlo direttamente. E la cosa che mi colpisce in lui, e che mi colpisce in generale negli artisti anche contemporanei, è quella volontà di comunicare con l'altro a prescindere dal proprio ego. Cioè, quando un autore ha come scopo primario quello di mettersi in relazione con chi lo guarda, quindi la delicatezza e la chiarezza con cui lui racconta le storie della Bibbia mi hanno sempre fatto tanto riflettere, perché quello dell'arte è un ambiente che seduce molto, per cui bisogna, a mio giudizio, che voglio dire, sono arrivata qui con la volontà di ferro, una volontà allenata, essere attenti a... cioè io credo di dover stare attenta a dove voglio andare, anche a costo di dire di no, per non tradire tutti gli sforzi fatti finora. C'è una cosa molto bella che scrivi nel tuo sito, a proposito di quello che dicevi adesso. Scegli un oggetto senza sentirti superiore o inferiore, senza imbarazzo o sospetto, semplicemente alla pari, e parla con lui. Questo si riferisce al progetto d'arte visiva, fotografica, chiamiamolo sì, performativa, Discorso alla pari. È un progetto fotografico, ma che ve lo spiego in due parole. Ho chiesto ad alcune persone un paio di anni fa, ho fatto questo esperimento, di scegliere un oggetto secondo queste caratteristiche, cioè senza avere imbarazzo o sospetto. Faccio un esempio: io, se dovessi pensare a un oggetto amico, un oggetto mio pari, non potrei certo scegliere un vocabolario di latino per i motivi di cui sopra, ma posso scegliere con una certa leggerezza una caffettiera, perché mi sento completamente amica, mi sento a mio agio e potrei parlare con lei per ore. Con questa idea, cioè con questa con questo spirito, chiedo alle persone di scegliere un oggetto e poi di venire nel mio studio a spiegarmi il motivo della loro scelta. A quel punto le persone raccontano in interviste molto brevi di un quarto d'ora, perché non sono psicologa, non mi interessa andare troppo in profondità, però sono molto molto curiosa di sapere i motivi che hanno mosso una scelta piuttosto che un'altra. Tutto ciò perché mi sono domandata negli ultimi anni, osservando l'evoluzione della tecnologia e dei media, soprattutto per quanto riguarda i social network, in che modo e in che misura gli esseri umani oggi hanno facoltà di essere autentici, potendo nascondersi così frequentemente dietro una maschera o dietro un filtro? La risposta ipotetica, un'ipotesi che ho posto, che sto sperimentando, possibile risposta è quando operano una scelta, cioè agiscono, quindi scelgono un oggetto in questo caso e mi raccontano. Ci tengo a precisare che il titolo Discorso alla pari deriva dai miei studi classici, che quindi non rinnego perché tutto serve, che mi hanno insegnato che il discorso è una forma dell'arte del passato. Pensiamo al discorso sulla pittura. Logos. Esatto, per cui colui che ha competenza in una materia ne può argomentare, cioè può fare appunto un discorso. Allora, se la materia della disquisizione sei tu, tu hai facoltà di raccontare la tua storia. Quindi, dopo che una persona mi ha spiegato i motivi della sua scelta, per cui per esempio ha scelto un vinile o ha scelto un pettine, eccetera, chiedo di darmi un titolo. È un discorso alla pari su, per esempio, uno che mi può venire in mente così su due piedi, un architetto venuto nel mio studio, ha portato una squadra e mi ha detto: io uso CAD, uso il computer, uso tutte le tecnologie, ma quando si tratta di impostare un progetto ho sempre bisogno della squadra, di mettere ordine con questo strumento. Quindi in certo senso le sono grata, e quindi ha fatto un discorso alla pari sulla gratitudine. Quello che vedo, che ho scoperto, finora sono arrivata a fare circa 180 discorsi alla pari, nessuno mi dice stupidaggini, nessuno prende la cosa e si ride molto. Adesso io sono tutta emozionata, per cui ho questo tono di voce basso e sommesso, ma in realtà è una gioia fare il discorso a va bene, cioè in radio sei in buona compagnia, non ti preoccupare, voglio dire, va benissimo in radio avere questo approccio soft, poi si cresce lentamente, si finirà in una grande festa, la luce vino. Esatto, ecco questo. Ma era questa cosa dell'oggetto, sono un po' colpito. Infatti di solito io faccio le domande carcagne. Prego, e lui è il cattivo di turno. Sono il cattivo di turno, infatti faccio le domandacce, però adesso sono un po' in difficoltà a fare la domandaccia perché intanto il cervello sta producendo. Il rapporto con l'oggetto è una bellissima idea. Quello che è venuto fuori da quello che hai detto è che si parla di una relazione della persona con un oggetto. Hai appena citato la gratitudine in relazione ad una squadra. Sì. Squadra nel senso di oggetto. Sì. Quali altre cose vengono fuori? Nel senso, c'è sempre un rapporto di amore o di affetto con l'oggetto, o hai trovato anche qualcuno che ti ha portato un oggetto che odia? Mi viene in mente, perché c'è qualche, se io portassi un vocabolario di latino avresti forse, o di greco anche addirittura. No, greco no, greco l'ho schivata. Ha schivato il greco, peccato. Peccato, il greco, sì, il grande Rocci che sta nella mente. Mi manca tutti. In effetti. Sì, c'è una parte del mio cervello in cui c'è scritto Rocci, secondo me se si seziona c'è scritto proprio, si è modificato. Se portassi il vocabolario latino avresti una reazione contraria. C'è qualcuno che ha portato un oggetto che odia, questo è ciò che non voglio, questo è ciò che non è. C'è qualcuno che ha portato un oggetto per raccontare una situazione di disagio, quindi l'oggetto serviva per liberare questa situazione di disagio. Esempio, una ragazza mi porta un mazzo di chiavi, mi riferisco a un discorso alla pari che ho realizzato in un'azienda di Padova con i dipendenti, appunto, quindi abbiamo montato un set dentro il capannone, ed era un regalo che l'imprenditore ha fatto per i suoi dipendenti, per creare spirito di corpo. Quindi questa impiegata ha portato un mazzo di chiavi dicendo che sperava moltissimo di poterle utilizzare nella sua nuova casa, perché al momento viveva con il marito e la mamma del marito, e avrebbe tanto chiamasi suocera, ma lei è stata molto molto delicata, non ha mai chiamato suocera, ha detto la madre di mio marito, e auspicando di poter il prima possibile entrare in una condizione dello spirito in cui non dovesse contare fino a 10 prima di parlare. Brava, sembra essere un ottimo esercizio. Un discorso alla pari sulla libertà. Quindi le chiavi di per sé è un odio amore, però certo, servivano soprattutto per dire: io vorrei che queste chiavi fossero della mia futura casa. Il prima possibile. Quindi sì, era un disagio, ma in realtà, se capisco bene, era un disagio, una scusa, perché c'era una speranza. C'era un obiettivo, speranza, verso l'alto. Qualcuno ha avuto un obiettivo verso il basso, cioè qualcuno che ha detto odio questa cosa. Odio, vorrei uccidere, vorrei picchiare, vorrei urlare, vorrei sterminare, vorrei chiudere, vorrei... Cioè, chi ha chiuso una cosa negativa. Allora, in questo senso posso dire soltanto che c'è stato un unico discorso in sospeso in cui un ragazzo ha portato un orologio che gli era stato donato dalla sua ragazza, che è morta improvvisamente. Uno di quei casi di giovani che fanno un infarto inspiegabilmente, quindi questa trentenne un giorno stava facendo pallavolo ed è morta all'improvviso. Questi avevano in programma di vivere insieme, avevano già guardato una casa per un mutuo, e lui, già io mi sono stupita che, sapete, il discorso alla pari non è immediato, certo, da comprendere, e lui, e tra l'altro persona molto riservata, ha portato questa cosa che odiava, amava, e ha fatto un discorso alla pari senza una chiusa, e insieme abbiamo concordato di intitolarlo un discorso alla pari sul perché. Non si capacitava ancora. Mi ricordo Stefania, che voglio ricordare in questo momento, alla quale è successa esattamente la stessa cosa. Ciao Stefi. Perché? E questi sono i misteri della vita. Parlando di donne, quindi stiamo veramente andando verso l'argomento anche della serata, anche se per vie un po' diverse. Io credo che tu sia stata una delle prime in Italia a organizzare degli eventi che poi sono stati un po', secondo me, imitati da altri. Oggi vanno tanto di moda le scarpe rosse, si organizzano manifestazioni un po' dappertutto, e ce n'è una proprio domani a Firenze, dove vengono ricordate le donne purtroppo vittime di violenza da parte dei loro compagni, mariti e quant'altro. E nel 2009, ecco perché reputo che tu sia stata veramente all'avanguardia, hai organizzato un'installazione, giusto? Possiamo chiamarla così? Sì, è un'installazione interattiva. Che ha intitolato Giocattoli, con la quale tu hai voluto richiamare l'attenzione sulla condizione, per l'appunto, di molte donne e bambine che nella vita reale sono trattate come merce, trafficate da un paese all'altro, spesso purtroppo ancora oggi vendute, anche nella città di Padova, per l'appunto proprio come fossero giocattoli. È impressionante, e vi invito a visitare magari il sito di Anna, www.annapiratti.com, dove potete rivedere delle scene di questa installazione, dove ci sono tante Barbie, oppure Barbie, insomma, più o meno... Sono bamboline tipo Barbie. Nel caso delle Barbie avrei dovuto, che sono centinaia, sono circa 800, avrei dovuto pagare i diritti a Barbie alla Mattel, e comunque la Barbie è un oggetto sofisticato, mentre le bamboline che io uso per questa installazione sono delle bamboline leggerissime tipo Barbie, ci assomigliano molto. Infatti ce ne sono un paio che ricorderebbero. Quelle sono state regalate perché ho lanciato una richiesta pubblica se qualcuno aveva Barbie da regalare, e ne sono arrivate alcune. A quel caso regalato va bene. Però ho acquistato una serie di centinaia di queste bamboline che assomigliano molto alle Barbie, però non si piegano le braccia, non si piegano, sono al limite della decenza, sicuramente molto probabilmente realizzate da persone in stato di pseudo schiavitù, importate dai paesi dell'Oriente, perché, parlando di sfruttamento, di tratta, di violenza, la materia stessa con cui è realizzata l'installazione non poteva prescindere. Cioè, se io avessi voluto, per dire, acquistare le stesse bamboline realizzate con situazione, non so, di lavoro sindacalizzato, eccetera, non avrei potuto acquistarle economicamente, non me lo sarei potuta permettere, ma comunque bucare la globalizzazione della merce è impossibile, mi sono proprio resa conto che è impossibile. Tra l'altro tu su ciascuna delle bamboline avevi scritto modello Alina. Perché all'epoca, nel 2009, quando questa installazione mi è stata commissionata, è rientrata all'interno di una campagna che si chiamava Nessuno tocchi Alina. Il progetto mi è stato richiesto dall'Associazione Diritti Umani di Padova, e quindi aveva un forte accento riferito alla campagna in questione. Quindi ogni bambolina recca un un cartellino tipo quelli dei prezzi al collo con scritto modello Alina, cioè un modello di donna plastificato fatto in serie, quindi senza un'anima, senza un pensiero suo, senza aspirazioni, sogni, parenti, eccetera. Questo, così nasce l'idea. Poi l'idea si è evoluta nel tempo ed è diventata Toys, si è internazionalizzata ed è diventata Toys Move On, così si uh-huh. chiama il progetto completo oggi, che ha sposato anche lo spirito di Silvia Gribaudi, che è la coreografa con la quale sto collaborando al momento e che sarà supportato l'8 marzo da Oxfam per una campagna contro la violenza sulla donna. Questo avverrà a Padova? Questo avverrà a Bruxelles. Avverrà a Bruxelles l'8 marzo? Quindi approfittiamolo diciamo l'8 marzo, dove esattamente, ripetiamo ancora? Allora, Place de la Monnaie. A Place de la Monnaie, quindi siamo al centro, a quattro passi dalla Grand Place. A che ora? Alle 10. Un po' presto, ma faremo in modo di esserci. Sì, sarà, sì, poi il progetto, l'installazione continua per un paio d'ore, quindi c'è tutto il tempo di organizzarsi e passare. La cosa che ci tengo a dire è che non è la semplice esposizione delle bamboline, che sicuramente hanno il loro effetto tristemente glamour, ma viene invitato il passante occasionale, la signora con la spesa, il bambino, il ragazzo, eccetera, a agire sull'installazione. Quindi io invito, poi ci sono anche, c'è lo staff di Oxfam, ci sono altri collaboratori che inviteranno i passanti che si avvicineranno incuriositi a prendere una Barbie, una bambola, e a vestirla con delle stoffe bianche, dei laccetti rossi che sono a disposizione, e così facendo entrare in un processo, mi auguro, virtuoso di presa in carico dello stato di fatto delle cose. Cioè, ovviamente siamo su un piano simbolico, per cui non è che vestendo una bambolina si salva il mondo, ma bisogna pur partire da qualche parte. Quindi certo, dico, un atteggiamento va educato nel tempo, anche con cioè, la cultura è questo, è un investimento a lungo termine. Assolutamente. Certo, però adesso ti prendo sempre in contropiede. Sì, te non è carcagni, mi sto riprendendo un po'. Hai parlato, hai detto sfortunatamente glamour. Allora io ti chiedo, che cos'è per te la bellezza? Ne abbiamo parlato tanto, Sanremo, ha nominato, mi pare, 248 volte. George, mi hai anticipato, pure io la volevo ti chiedere. Ti ho anticipato, sì, pazienza. Parlando proprio della grande bellezza. Allora mi ritorno indietro? No, assolutamente, George. È il concetto tuo di bellezza. Perché mi sembra che glamour invece sia un connotato negativo. Allora che cos'è per te la bellezza? Ho detto tristemente glamour nel contesto. Perché ovviamente c'è un contrasto di fondo. Io ho sempre amato le tecniche miste, l'olio insieme all'acqua, cose che tra di loro non andrebbero d'accordo, ma che trovano una strada comune. Quindi in questo senso ho detto tristemente glamour, perché ho visto fare questo progetto tante volte in Italia, ho visto l'effetto che fanno queste bamboline che vorrebbero rappresentare un'umanità terra e che invece suscitano gli istinti più bassi. Ok, perché passano attraverso un codice visivo che è considerato glamour e quindi come tale permissivo, quindi seducente. Detto ciò, per rispondere alla tua domanda, per me la bellezza è qualcosa di utile, come è utile il martello per piantare il chiodo. È qualcosa legato al benessere completo della persona. E in questo senso la frase che mi ispira da sempre è che il bello alzi le difese immunitarie. Di questo sono profondamente convinta, ma non è che io mi convinco io, i dottori, i medici, gli scienziati lo dicono, ma dicono questa cosa al contrario, cioè che vivere in un ambiente malsano, insalubre, senza relazioni positive, promoventi, abbassa il sistema immunitario. Quindi è vero anche il contrario. Abitare in un luogo illuminato, avere una salubre, avere una frequentazione interessante, poter esprimere il proprio potenziale e quindi di conseguenza circondarsi di bellezza a strati diversi, bellezza è anche poter gustare un cabernet con una persona cara, ok? Questa è la mia opinione, ti fa stare bene e quindi in salute, non c'è niente di più importante. Quindi è slegata dal canone estetico. È cosa buona e giusta, si dice, no? Si potrebbe dire cosa bella e giusta. Cioè una... Personalmente non credo che la bellezza possa slegarsi da un accento etico. Mamma mia. Signori, tenetevi forte, se siete seduti, mi raccomando, non siete caduti. ridillo, la bellezza non può prescindere. No, non, personalmente non credo. Da un aspetto etico. Questa invece me la prendo, questa te la ruberò. Se me la concedi, questa te la rubo. Ti prego, poi la citerai come a nota piedi pagina, ruota libera. Questo citerò, ci ricollega a quello che abbiamo detto martedì scorso con Rosaria Guerra, che era nostra ospite, autrice del Perché gli svizzeri sono più intelligenti, la quale dice, si auspicava proprio quello, si auspicava che in Italia ci fosse un ritorno all'etica per recuperare proprio il senso più vero della nostra della nostra civiltà. Citavi prima Giotto, e sono stata proprio recentemente agli Uffizi a Firenze, e non si può essere non praticamente toccati dalla bellezza dell'arte prodotta all'epoca. La settimana scorsa ero invece ai Musei Vaticani e ho passato interamente delle ore naso in su alla Cappella Sistina, e a volte mi chiedo come può il nostro paese, che è stato promotore di ideali, di valori, di bellezza, sicuramente legati a canoni estetici ma legati all'arte, alla pittura, all'architettura, alla scultura, come può questo nostro paese ricordarsi solo quando vinciamo un Oscar, che manco a farlo apposta si chiama La grande bellezza. Io ho molto ammirato il film di Sorrentino, l'ho visto 2 volte, quindi non sono tra le persone critiche, però poi mi stupisco di leggere anche tra gli intellettuali che ci si ricordi di quelli che sono i nostri valori più veri solo perché a un certo punto l'America si sveglia e consacra, guarda un po', un napoletano, tra l'altro, al vertice del cinema universale. Ma questo è un altro argomento, entreremo poi in un discorso che, ahimè, diventa troppo difficile. Detto questo, tutti gli onori e meriti a Sorrentino e a Servillo esprimono un modo di fare arte e cultura, sicuramente eticamente corretti, quindi restiamo in quello che abbiamo detto. Anna, ahimè, in radio il tempo è tiranno, ma che cosa bolle in pentola? A che cosa lavori in particolare in questo momento? Dunque, chiaramente sono gli ultimi giorni di attesa prima di Toys Move On l'8 marzo per Oxfam, e poi sto portando i miei dipinti, perché non dimentichiamoci che la mia passione numero uno è la pittura, già che penso come dipingo. E quindi sto cercando spazi, occasioni, gallerie, fondazioni e tutti i canali possibili che mi possano permettere di esprimermi e di farmi conoscere. Bellissimo. Ma io mi sono da dire mannaggia. Mi spiace, ma alla fine di questa intervista mi viene da dire mannaggia. Maledetto tempo tiranno. Sì. Si potrebbe fare veramente una di quelle volte in cui vorrei fare una trasmissione di 4 ore, sì, no? Uno parla a ruota libera e si diverte e si riempie di cose belle, perché la bellezza, il motivo per cui abbiamo scordato la bellezza, secondo me, è perché non ne parliamo, non siamo educati, non ci educhiamo, la diamo per scontata. Ma io penso anche che non frequentiamo il sottobosco. È possibile che io conosca una serie di artisti eticamente impegnati, ma impegnati nel quotidiano, non parlo di grandi boutade, di cose semplici, piccole, vere, autentiche, che non riescono a sfondare il muro di gomma, perché il problema non è tanto l'assenza di bellezza o di chi la faccia, il problema è chi sceglie chi. Sì. Assolutamente sì. Quello. Assolutamente sì, però noi nel nostro piccolo Bruxelles, certo, facciamo questo. Io vorrei ringraziarvi per lo spazio che mi avete dedicato e per l'opportunità di spargere il verbo. Ma noi abbiamo cominciato 6 anni fa come Giorgio, anzi 7 anni ormai fa, e siamo felici perché tra i vari ospiti c'è stato qualcuno che è riuscito ad andare al di là di quel muro di gomma, lavorando anche molto da solo, col passaparola, con una sorta di democrazia legata anche alla rete che va al di là. Ma tutto questo richiede impegno, coraggio, determinazione e una forte volontà nella propria persona, nei propri ideali, nei propri valori. Quindi io credo che insieme a questa bellezza di cui abbiamo parlato stasera, una bellezza sicuramente positiva, ci sia anche il discorso dei valori che l'arte stessa può veicolare. Cioè, quando si entra nella Cappella Sistina c'è una frase che mi ha particolarmente colpito, dove si parla di arte e di fede, e a quel tempo si veicolava la fede come strumento di divulgazione anche della conoscenza della Bibbia. Oggi, come dicevi giustamente tu, non è il problema di chi fa o di chi produce la bellezza, è che ci accontentiamo, restiamo in superficie, non abbiamo più dei momenti di interiorità come l'arte stessa ci chiederebbe, e ci accontentiamo rapidamente di X piuttosto che di pagare magari anche qualcosa in più per avere un prodotto di qualità. Certo. E questa è globalizzazione, standardizzazione, brussellando, fa quel poco che può. Piccola, siamo una goccia nel grande mare, però sai, una goccia di nero in un vaso bianco, di pittura bianca, qualcosa fa, no? Mi dice. Però, insomma, non molleremo, ecco, la nostra intenzione, ecco, è proprio quella di continuare. Fate parlare i viventi, grazie. Assolutamente, ci sì. Assolutamente sì, noi viventi vogliamo, vogliamo stare vicino. Grazie. E io spero tanto che questa cosa si veramente si sparga, mi piace. E mi soprattutto piace dire. Sì, ricordiamo per l'appunto la manifestazione Toys, perché vi assicuro che vale la pena di partecipare, quindi sabato dalle ore 10 alla Place Le Monet. E volevo dire un'altra cosa, Brussellando ha sempre solo parlato di viventi, perché quello è il modo per poter trasmettere la nostra arte, il nostro presente. A volte magari non in toni eccelsi, perché non tutti riescono a padroneggiare correttamente lo strumento radiofonico, però... No, ma questo fa parte della varietà. Quello quindi fa parte, infatti. Voglio dire, veramente, bisogna insegnare la bellezza. Cioè capire, per esempio, chi si trova meglio in una cosa, chi in un'altra. Cominciare ad avere degli strumenti per distinguere, per imparare il bello, e soprattutto, questo te la rubo già da adesso, per capire che il bello non può separarsi e discostarsi dall'etico. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori il sito internet di Anna, quindi www.annapiratti.com. Nel suo sito potete ritrovare la biografia di Anna e tutte le attività, quindi artistiche, culturali, direi, quindi anche le azioni che ha svolto nel tempo, nonché video e altre informazioni. E potrete anche scriverle, se andate infatti a cliccare su info avrete anche l'email di Anna, info@annapiratti.com. Anna, Brussellando è stata veramente onoratissima di averti nostra ospite questa sera, e ci auguriamo, auspichiamo di poterti avere nuovamente qui con noi per parlare di altre iniziative, e per il momento in bocca al lupo per sabato. Grazie di tutto, grazie dello spazio e dell'invito. Eccoci di ritorno ai microfoni di Radio Alma, Brussellando, siamo con voi, abbiamo avuto un momento... topico, è venuto un momento in cui sì, c'eravate, avete sentito la bolla che si è gonfiata a partire da Brussellando e si è sparsa per l'etere e via. Sì, via, oggi è il via. 4 marzo, Giorgio. Sì, oggi è il 4 marzo, sì, e quindi insieme alla bolla di gioia che ci ha portato Anna Piratti, ecco, beh, insomma, c'è sempre il contrappeso è la tristezza, diciamo, abbiamo parlato di viventi, però ogni tanto bisogna ricordare anche chi non c'è più e che però è stato un grande vivente, ecco, nel caso di specie è Lucio Dalla. Lucio Dalla che ci ha lasciato a marzo, il primo marzo, poco prima del suo compleanno, e che noi abbiamo avuto la fortuna di intervistare poco prima della sua morte. E ci ha lasciato con una bellissima frase, un saluto carissimo, che era buona vita a tutti. Lui ci salutò con queste parole, non gli avevamo chiesto quale fosse il messaggio col quale salutare i nostri amici ascoltatori, e mi ricordo che mi aveva molto sorpreso questo suo messaggio, e ci salutò proprio così, buona vita a tutti da Lucio Dalla. Penso che non lo dimenticherò mai. No. E comunque è stata una personalità sicuramente straordinaria, variegata, anche lui amava molto l'arte. Tra l'altro qualche giorno fa ho letto proprio sul giornale che è stata anche creata una fondazione in suo onore, resa proprio a tutelare quello che era il patrimonio artistico e culturale che lui stesso era stato in grado di costruire nel tempo. Questa sera continuiamo a parlare di donne. È un argomento di cui si parla tanto, a volte magari anche in maniera impropria, lasciatemelo dire, ma questa sera abbiamo invece validi rappresentanti che ci raccontano proprio di esperienze che sono fatte sul terreno proprio per diffondere messaggi positivi e soprattutto messaggi di speranza affinché veramente ci possa essere, non ci possa più essere violenza sulle donne. Ritorna con noi Cristina Babino. Cristina Babino, che bello. Che io e Giorgio intervistammo, penso nel 2009, se la memoria non mi inganna, in libreria proprio, la libreria Piola, qualche tempo fa, e Cristina è nuovamente qui con noi questa sera. Cristina, benvenuta a Radio Alma, a Brussellando. Buonasera, ciao. Bentornata soprattutto. Sì, grazie per l'invito. Bello risentirti, bello, bello. E noi siamo proprio lieti di ritrovarti. Tra l'altro sappiamo che sei impegnata in tante attività, che sei tra l'Italia ed il sud della Francia. Prima ti invidiavamo un po' perché sei comunque al caldo. Quindi Cristina, se ricordo bene ci siamo sentite qualche anno fa. E raccontaci un po'. Non mi ricordo neanche che anno era. Io e Giorgio pensiamo fosse il 2009. Sì, sì. Quindi qualche anno fa, raccontaci che cosa è accaduto intanto. Intanto, dunque, ci eravamo incontrati per la presentazione del mio libro La Donna d'Oro all'epoca, mi ricordo. Esatto, esatto. alla libreria. E nel frattempo sono diventata mamma, adesso una bambina, che questa è la novità più grande, possiamo dire, senz'altro. E adesso ha 3 anni e mezzo, e nel frattempo, dedicandomi a lei, ovviamente ho un attimino rallentato l'attività di scrittura e di critica, e mi sono dedicata a lei. Ora che lei è più grande, va a scuola, ho ricominciato con la mia attività e mi sono cimentata questa volta con la traduzione. Il mio ultimo libro è un libro di traduzione di un poeta americano, e ci sono anche altri progetti in corso, magari poi ne parliamo. Allora, io invece comincerei, se tu sei d'accordo, con questa tua petizione che hai lanciato online, perché questa sera abbiamo pensato ed organizzato piuttosto una riflessione sulle donne che, ahimè, purtroppo continuano ancora ad essere discriminate. Tu stessa hai proprio lanciato una petizione qualche tempo fa. Sì. E ce ne puoi raccontare, ci puoi raccontare un po' questa vicenda, perché mi sembra essere estremamente interessante. Ho avviato una protesta nella mia città di origine, che è Ancona, nelle Marche, relativa all'installazione di una statua che è stata installata nel marzo del 2013, quindi giusto un anno fa, possiamo dire. È una statua che è stata acquisita dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, in collaborazione con altri enti e altre associazioni locali, ed è stata posta sul suolo pubblico come simbolo di lotta alla violenza contro le donne, come monito appunto per tutte le persone, come strumento di riflessione anche, se vogliamo, sul tema della violenza sulle donne. Quindi la finalità del gesto era senz'altro e rimane senz'altro encomiabile. Sappiamo che in Italia nel 2013, soltanto nel 2013, sono morte 128 donne di femminicidio, per cui l'emergenza sociale è forte. Il problema dove sta? Il problema sta nel fatto che, al di là della finalità, appunto, che è assolutamente condivisibile e giusta, la statua in sé ha lasciato perplesse, se non indignate, moltissime donne, e soprattutto moltissime donne vittime di violenza e familiari di donne uccise. Questo perché? Perché si tratta di una statua che non è stata acquisita tramite un bando, ma è stata acquistata direttamente dall'ente pubblico che l'ha scelta, dall'autore della statua, ed è una statua che ritrae una donna dalle forme procaci, di perfetta bellezza, con delle vesti molto succinte e degli strappi che inquadrano in maniera quasi iperreale le sue parti anatomiche, uh-huh. Il seno e diciamo il lato B. Noi riteniamo che, ecco, con tutto il rispetto per l'opera d'arte, per l'artista, per la sua libertà di espressione, riteniamo semplicemente che questa statua non possa essere considerata un simbolo di lotta alla violenza sulle donne. Ecco. Quindi appena la statua è stata svelata, si è creato subito un gruppo Facebook per chiederne la rimozione. All'inizio io, da semplice cittadina, ovviamente avevo una mia idea, che era ovviamente un'idea contraria all'esito di questa iniziativa, ma avevo pensato di tenerlo per me. Poi però, vedendo che tante persone si erano appassionate a questo argomento, e soprattutto conoscendo molto bene una persona che ha subito violenza in prima persona, ha subito anzi uno degli atti di violenza più gravi che si siano registrati in Italia negli ultimi anni, che è una mia carissima amica, sentendo il suo disappunto ho voluto proprio fare qualcosa. E quindi alla fine, vedendo questa grande mobilitazione popolare, ho deciso di incanalarla in una petizione che oggi ha raggiunto le 2600 firme, le 2600 adesioni di privati cittadini, a cui si aggiungono ben 63 centri e associazioni antiviolenza, 20 organismi di pari opportunità in tutta Italia, 3 centri di studi di genere universitari e poi tantissimi personaggi anche pubblici. Ricordo così Massimo Cacciari, Oliviero Toscani, Lella Costa, Monio Vadia, tutte personalità del mondo della cultura e dell'arte italiana che si sono pronunciate a nostro favore. C'è da dire che nonostante la mole delle adesioni e la loro importanza, la statua è ancora lì e probabilmente lì resterà, quindi ecco, questo ci fa un po' pensare su quanta voce in capitolo abbiano effettivamente i cittadini e la loro volontà nelle vicende politiche. Noi comunque continuiamo ad andare avanti e siamo certi della nostra della giustezza della nostra posizione e continueremo fino alla fine a far sentire la nostra voce in un modo o nell'altro. Beh certo, bisogna sempre cominciare a protestare, le proteste non sono quasi mai ascoltate subito, vengono ascoltate molto tempo dopo e si capisce dopo la profondità, quindi noi vi appoggiamo in questa vostra lotta. Essendo una battaglia diciamo culturale fatta sul simbolico, ovviamente la prima reazione politica è dire ma ci sono tante cose più importanti, più urgenti su cui discutere, cercano di liquidare la questione così, invece la questione è importante perché purtroppo la violenza sulle donne è un tema che si combatte in prima battuta proprio sulla cultura e sui messaggi culturali, sulla comunicazione anche istituzionale che si fa di questo tema. È ovvio che una comunicazione istituzionale non appropriata, non adeguata, non aiuta la battaglia in questo senso, anzi la ostacola. E quindi ecco, quello che dispiace è che ecco, in questa protesta le istituzioni poi non siano state sensibili a quella che è la voce delle donne vittime di violenza che con l'assalto hanno voluto omaggiare. Quindi ecco, è un paradosso un po'. Certo. È difficile da digerire, insomma, ci saremmo aspettati un minimo di dialogo perlomeno su questa cosa, anche al di là dell'esito che poi si potrebbe avere, però che non ci sia proprio stata volontà di confronto su questo dispiace molto, ecco. Invitiamo magari i nostri amici all'ascolto, a quelli che fossero interessati, di consultare il sito change.org, proprio all'indice petizioni comune di Ancona, dove potrete quindi direttamente sostenere l'azione che Cristina ha lanciato qualche tempo fa. In questo senso volevo anche ringraziare la signora professoressa Argia Mazzonetto, la quale effettivamente ci ha segnalato questa iniziativa e quando ho letto l'email, come sai Cristina, ho pensato immediatamente a te ed eccoci qui questa sera. Veniamo invece alle tue attività, perché notiamo con piacere che hai ripreso anche a scrivere, quindi come nasce l'idea di tradurre John Taggart? Dunque, John Taggart è uno dei massimi poeti americani viventi infatti. Negli Stati Uniti, e sì, è uno dei più importanti, è un poeta sperimentale che prende le mosse un po' dalla poetica oggettivista di Zukowski e di George Open e poi sviluppa poi una sua poetica sperimentale appunto che parte dagli anni 70 e arriva fino ad oggi. È un signore che è nato nel 1942 e quindi insomma avrebbe l'età di mio papà, diciamo, e ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente in Portogallo nel 2007 in occasione di un convegno mondiale di poeti appunto organizzato dall'Università di Coimbra in Portogallo e poi ho avuto la fortuna di passarci un intero mese a stretto contatto l'anno successivo nel 2008 quando siamo stati chiamati come Poets in Residence, lui per l'America e io per l'Europa, sempre in Portogallo, sempre ospiti dell'Università di Coimbra. Durante quel mese a stretto contatto eravamo sperduti in un paesino del Portogallo al confine della Spagna molto caratteristico che si chiama Monsanto. Lì potevi fare poco, potevi passeggiare, potevi ammirare la natura e potevi parlare. E John Taggart è un chiacchierone, diciamo, ama molto parlare, è un grande affabulatore e quindi è nata una bellissima amicizia che ci ha dato poi l'idea per questa collaborazione e quindi abbiamo deciso di tradurre Pastorali, che è uno dei suoi ultimi libri, è uscito nel 2004 e è un libro che io ritengo tra i suoi migliori in assoluto e il cui tema fondamentale è la campagna della Pennsylvania dove lui vive da alcuni anni. Beh. E abbiamo quindi deciso di avviare questo progetto che si è concretizzato nello scorso dicembre con l'uscita appunto di questo libro Pastorali da me tradotto e introdotto, uscito per Vidi Editore che è un piccolo ma validissimo editore marchigiano della mia terra di origine, quindi che da qualche anno propone delle traduzioni appunto di autori stranieri validi, estremamente conosciuti nei loro paesi d'origine, ma in Italia non ancora tradotti neanche dalle grandi case editrici. Eh beh, questo è un vuoto importante a livello editoriale, crediamo. E questo purtroppo sì, è un grave problema che affligge anche l'editoria. Cristina, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi, magari chissà ci ritroveremo a Bruxelles Libreria a ripresentarti nuovamente per questa tua traduzione. Intanto, perché no, magari ci sentiamo via mail e insieme a Jacopo della libreria magari troviamo una data che riesce ad accontentare tutti. Ti auguriamo comunque in bocca al lupo per le attività letterarie, per le attività di impegno sociale e per la bambina. Come si chiama tua figlia? Claudia, si chiama Claudia. Allora salutiamo anche Claudia. Certo, tanti auguri e tante belle cose a Claudia. Grazie mille. E se posso volevo anche anticipare che è in uscita adesso ad aprile un altro progetto da me curato, è un'antologia di prose dedicate alle Marche, sempre alla mia regione, scritte da sole autrici marchigiane, quindi un libro tutto al femminile sulla mia regione, sempre edito da Vidi Editore, un progetto a cui tengo molto anche perché è il primo nel suo genere per quanto riguarda quel territorio, quindi... Visto che oggi si parlava di donne. Assolutamente, mi sembra essere un'ottima segnalazione. Cristina, allora mille in bocca al lupo e a prestissimo. Grazie mille, grazie a voi, buona serata. Buona serata. Ciao, ciao. E adesso Librangolo DAP. Librangolo veloce. Zoom. No, DAP è un discorso alla pari perché credo che il tuo oggetto preferito sia un libro. Possiamo discuterne, magari non adesso, perché il tempo è tiranno. Perché il tempo ne parlerai è tiranno. Con Anna Piratti allora. Ne parlerò con Anna Piratti. Organizziamo una performance. Rossellando e Anna Piratti. Perché no? Allora, stasera vi ho portato un libro di Peter Carey, che è uno dei sta piano piano si sta insinuando fra i miei autori preferiti. Uno dei suoi ultimi libri si chiama La chimica delle lacrime. Allora, in un certo senso magicamente questo libro si connette a vari punti delle nostre discussioni oggi. Si tratta di la protagonista è una curatrice di museo che dopo una relazione amorosa di 13 anni clandestina perde il suo amante. No. E questa perdita per lei è doppiamente difficile perché, dato che nessuno può sapere della relazione clandestina, allora lei deve anche nascondere il suo dolore. E quindi cioè l'unica persona che ancora ne sa le affida un progetto che è il rimontaggio di un vecchio giocattolo meccanico. Allora ovviamente dovete sapere che nell'era vittoriana questi giocattoli meccanici erano degli splendori, meraviglie e anche opere, cioè fra l'arte e la scienza. Cioè, in questo caso cioè, si crede che si tratti di un'anatra. Mentre no, non vi dico che cos'è. E mentre è altro. È altro da sé. E diventa altro. Praticamente immaginatevi una situazione in cui in vari cartoni trovate degli oggetti che sono le parti, diciamo, del giocattolo finale, che sono tutti grandi, si tratta di un giocattolo immenso, meccanico, che si muove e che si atteggia in modo naturale. E che ha milioni di pezzetti piccolini di argento, di vetro, e già a capire la destinazione dei vari pezzi per arrivare a montare il giocattolo finale che effettivamente dopo si tira e funziona, è già di per sé una cosa incredibile. E oltre a questa avventura incredibile del rimontaggio che piano piano assorbe la protagonista e in un certo senso la sta portando verso a rimontare se stessa in qualche modo, c'è anche l'avventura parallela che è quello del committente originale dell'oggetto, che anche lui si è lanciato nella nell'ordinare questo pezzo di giocattolo per dare un piacere a un suo figlio malato, probabilmente inguaribile. E quindi queste due storie sono un po' in parallelo e e le sorprese vengono alle due persone più o meno allo stesso tempo, e la storia dell'uno aiuta l'altro e all'inverso. E vabbè, che cosa vi posso dire? Quanto tempo ho? Non ho tempo, quindi quindi siccome non ho tempo non vi dico tanto altro, soltanto che Peter Carey ha un modo di scrivere molto bello, ha un linguaggio molto molto, sì, molto bello. Posso soltanto, parliamo di bellezza della lingua, allora dobbiamo menzionare Peter Carey, secondo me, e se riuscite di leggerlo nella lingua originale tanto meglio. E quindi ve lo raccomando, sia per la qualità linguistica sia per la bellezza della storia, e questo modo affascinante in cui non soltanto la protagonista ma anche noi veniamo tirati dentro questo gioco da un lato meccanico, dall'altro lato di scienza e dall'altro lato comunque degli affetti. Beh, adesso ci verrebbe la domanda carcagna, però. Perché? No. Cattiva, rognosa e carogna? No, mi dispiace. Non abbiamo il tempo per la domanda carcagna. No, hai due. Abbiamo salvato Imola. È solo piccolina. È, cioè, la scrittura di visto Peter che Carey. Arrivano i personaggi insieme, che scoprono il bello insieme? Non si può dire. No, cioè, allora allo stesso tempo. C'è un diario di questo del committente originale del 1800 che viaggia insieme all'oggetto. Diciamo, e quindi la protagonista trova il diario fra i cartoni e comincia a leggerlo, quindi sta un po' passo a passo seguendo le istruzioni, la costruzione originale con tutto quello che l'accompagna dal punto di vista affettivo e inventivo, e segue anche la sua stessa storia. Ecco. Bene. Daniel mi protesta. Mi è curiosito. E lui mangia fuoco. Mangia fuoco. Io sono mangia solo fuoco, io e Imola siamo tra cattivi. Te la faccio io la domanda cattiva, Giorgio. La domanda carcagna la fai tu, va bene. Cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questa ricchissima puntata di Brussellando. Ne approfitto quindi per augurare soprattutto a tutte le ascoltatrici un'ottima giornata dell'8 marzo. Ricordiamolo, ovviamente, le donne, come si diceva un tempo, vanno sempre rispettate, tutti i giorni. Ringrazio per la parte tecnica Dani M. Grazie, buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Grazie, buonasera. Il nostro George, che è sempre più cattivo. Sempre più cattivo, sì, sto invecchiando, quindi probabilmente viene con la cattiveria, che ne so, viene fuori il veleno che ho mangiato durante tutti gli anni. Però il veleno non mi impedisce di dire grazie, grazie a Melody, senza la quale tutto questo non ci sarebbe. Buona settimana a tutti. Ciao.